23. I battelli procedevano in linea tra le anse tortuose del Wood Creek. La corrente si era fatta insidiosa. Guy Johnson consultava la mappa cercando di proteggerla dagli spruzzi. Appena 12 miglia in linea d'aria, ma 28 via fiume. Da tempo la corona avrebbe dovuto finanziare la costruzione di un canale. Era metà pomeriggio. Guy pensò ai nugoli di zanzare che attendevano il buio per assalirli. Erano già ricorsi al grasso d'orso. L'odore impregnava pelle e vestiti, non andava più via. Ora però il puzzo era meno pungente, ci stava facendo l'abitudine. Pensò ai misteriosi inseguitori, tagliagole mandati da Albany. Bisognava raggiungere Oswego il prima possibile. Guardò i volti pallidi e spossati di Mary e delle bambine. Quel viaggio era l'occasione di rinnovare le fortune di famiglia. Ripercorreva il cammino di Sir William, non poteva essere un errore. Ricordava bene l'ultima volta che aveva affrontato quella via, l'accoglienza che gli indiani avevano riservato al vecchio come fosse il re in persona, il grande padre bianco. Ora aveva con sé i migliori guerrieri, gli ultimi di una grande stirpe, il futuro della discendenza nel ventre della moglie, doni in abbondanza, rum, fucili, polvere da sparo, specchi. La più piccola, Judith, domandò dove finiva il fiume. Guy rispose che sfociava nel lago Oneida, dalle acque placide. Sulla superficie si trovavano particelle scure che la gente del posto chiamava fiori di lago. Nessuno ne conosceva la natura. Chi diceva fosse polline di castagno, chi alghe putride. Qualunque cosa fossero, se mangiate provocavano vomito, febbre e diarrea. La bimba parve spaventata. Guy le accarezzò la guancia e disse che non avevano nulla da temere. Il lago era bellissimo, i pesci lo affollavano in ogni stagione. Bisognava infilare una piuma sull'amo per acchiappare lucci e trote in abbondanza. I salmoni pesavano 20 libbre e i pesci volanti avevano ali da fare invidia a un falco. Judith dedicò al padre uno sguardo luminoso. Guy proseguì il racconto. Avrebbero attraversato il lago, a vele spiegate, fino all'imbocco del fiume Onondaga. Un altro fiume? Era la voce di Sara, la secondogenita. E un altro lago, grande come un mare. Tanto grande che non vedi la terra dall'altra parte. Le bimbe rimasero a bocca aperta. Esther invece sedeva con le mani in grembo, la schiena dritta, come le avevano insegnato. La pelle aveva il colore di un giglio spuntato tra le rocce. Sostarono in un anfratto del lago. Pescatori Oneida offrirono a Mary Johnson una capanna accogliente. Mentre il fuoco asciugava i vestiti, le donne aiutarono Mary a sdraiarsi e l'avvolsero nelle coperte. Sua sorella Nancy mise a letto le nipoti. «Quando arriviamo?» chiese Judith, mentre si sdraiava su una coltre di lana. «Presto saremo al lago Ontario. E ci saranno tanti indiani?» chiese Sara. «Più di quanti ne avete mai visti?» Esther non ascoltava, teneva gli occhi fissi sulla madre. Nancy percepì la paura della bambina, l'accarezzò e la fece sdraiare accanto alle sorelle. «Dormi». La bambina aveva occhi verdi, acquosi. «Ci uccideranno?» chiese, senza enfasi. «Ma cosa dici? Gli indiani sono nostri amici e rispettano vostro padre. Quando arriveremo, faranno festa!» Esther si volse ancora verso la madre, sdraiata in fondo alla capanna. «Ho dei pensieri!» appoggiò la testa sul cuscino di pelliccia. «Me li ha mandati quella donna, Molly Brandt!» «Dormi, ho detto. Forse ci ha maledetti!» insistette. La zia le strinse un braccio. «Smettila di dire sciocchezze, spaventi le tue sorelle. Pregate, piuttosto». Un padre nostro, bisbigliato, si confuse con il crepitio del fuoco.